Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Parkinson, la realtà virtuale favorisce la riabilitazione perché migliora la forza, la destrezza e il coordinamento delle gambe, a dirlo uno studio condotto dall'Università del Rey Juan Carlos e pubblicato sulla rivista Sensor, che commentiamo a Obiettivo Salute con il professor Pietro Cortelli, presidente della Fondazione Limpe per il Parkinson e professore ordinario di neurologia all'Università di Bologna. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, la realtà virtuale fa parte da tempo di quello che è il progetto di una riabilitazione moderna, non solo dal punto di vista motorio ma anche dal punto di vista cognitivo. E in questo studio si è dimostrato chiaramente, rispetto a un gruppo di controllo, come il fatto di allenare in maniera virtuale anche delle funzioni cognitive migliora in maniera sostanziale anche le funzioni motorie. Quindi sottolineando ulteriormente come questa sia una strada da perseguire anche in maniera personalizzata, cioè nel senso che ognuno deve avere la sua propria realtà virtuale sulla quale cimentarsi per migliorare le proprie funzioni cognitive e motorie. Professor Cortelli, l'attività fisica fa parte integrante della terapia per i malati di Parkinson perché ha delle ricadute sia dal punto di vista motorio che cognitivo. Ci aiuta a capire perché? Questo significa sostanzialmente che anche nella nostra evoluzione l'attività del movimento non è solo ovviamente fine a se stesso, raggiungimento di cibo, raggiungimento di obiettivi importanti per la nostra sopravvivenza eccetera, ma che c'è un feedback continuo tra il cervello che coordina l'attività motoria e l'attività motoria che ritorna questi messaggi al cervello. Allora, in questa interazione tra le due, diciamo, funzioni, quando il cervello è più fragile, come nel caso di alcune malattie come la malattia di Parkinson, in pratica mancano alcuni mediatori chimici utili per muoversi in maniera naturale, attraverso l'attività motoria forzata si riequilibra quello che in qualche modo manca nel cervello. Chiaramente questo è un atto terapeutico che è stato dimostrato anche con immagini, con la PET o con altri strumenti, che non sostituisce la terapia farmacologica in cui sostituiamo quello che manca, ma sicuramente ne contribuisce all'effetto e soprattutto lo stabilizza nel tempo. In quest'ultimo periodo, dove la gente si è mossa meno causa, come sappiamo, le restrizioni per migliorare la lotta contro il Covid, i nostri pazienti hanno avuto un peggioramento motorio e indubbiamente in questa fase stiamo cercando proprio di ripristinare l'attività fisica più possibile per arrivare all'obiettivo di ritornare, diciamo, alla condizione motoria cognitiva precedente. Bene, per oggi è tutto. Come sempre vi do appuntamento sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Protagonista dei nostri incontri a tu per tu la dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, con cui parliamo di cure ordinarie e straordinarie per i nostri capelli in estate. Vi aspetto, buona giornata!